anche stamattina andiamo a leggere il giornale di Milano, anche quelli di Roma e Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, eccoci tornati in diretta alle 7:19 minuti qui a Radio 24. È lo spazio dedicato alla lettura dei giornali e la rassegna stampa di 24 mattino. Siamo tutti caldi e pronti per vedere che cosa ci offrono i quotidiani in edicola. E bravo Milan che adesso ci legge i giornali. Grazie. Allora, è martedì 24 gennaio e vediamo intanto i titoli, le aperture. Il Sole 24 Ore, come altri quotidiani, apre su questa notizia finanziaria: il blitz di Generali su Intesa, comprato il 3%. Anche Repubblica, le Generali a rischio scalata, scatta la battaglia con Intesa. La Stampa in prima pagina, braccio di ferro sul controllo delle Generali. E poi ancora l'hotel Rigopiano, si continua a scavare e man mano che passano i giorni emergono dei dettagli abbastanza inquietanti. Avvertiti 3 giorni prima, valanga, l'accusa della procura. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. E ancora l'albergo costruito sui detriti, questo è invece il titolo di prima pagina sul Messaggero, tanto che il Giorno sintetizza in maniera brutale: la strage si poteva evitare. L'Unità invece apre su Regeni, il video del tradimento appare sulla TV egiziana, un colloquio tra il ricercatore italiano poi sequestrato e ucciso in Egitto e il falso sindacalista che lo denunciò alla polizia. Queste alcune delle aperture, vedremo altre aperture di giornali nel corso della rassegna stampa, però voglio subito concentrarmi su quello che sono le polemiche che emergono sempre più prepotentemente sui giornali dopo la tragedia in Abruzzo. I ritardi, la mancata evacuazione, ora c'è l'inchiesta sull'hotel, si indaga per omicidio. L'allerta per le slavine, fanno sapere dalla procura, elevata già da 3 o 4 giorni prima. Quindi da 3 o 4 giorni si sapeva del rischio slavina. E poi questo resort costruito sui detriti di una valanga del 1936. Marco Imarisio, pagina 3 del Corriere della Sera. Carta canta. Per almeno 2 volte, nel 91, la regione Abruzzo decide di dotarsi di una mappa che segnala eventuali criticità sul proprio territorio. Si tratta di un debutto, reso necessario dalle alluvioni, dallo sciame sismico del biennio precedente. La carta ufficiale mostra come l'hotel Rigopiano sia al centro di un'area con colate detritiche, dette conoidi. A farla breve, un lembo di terreno rialzato rispetto alla superficie intorno per via dell'accumulo di materiale caduto dall'alto. Nel dicembre 2007 quel documento diventa una specie di vangelo ambientale perché viene adottato tale quale com'era dalla Giunta, che sulla base delle segnalazioni approva il nuovo piano di assetto idrogeologico. E da qui, racconta Imarisio più avanti nell'articolo, ogni elemento diventa un'opinione, quindi confutabile, come quella di Augusto De Sanctis, presidente di un forum, il forum H2O, che è convinto che non sia stata sciatteria, ma una pura questione di soldi. L'hotel Rigopiano era una struttura preesistente in una zona dove nel 1936 si era verificata una valanga di portata paragonabile a quella che mercoledì scorso ha fatto strage. A quel tempo nella valle sorgeva solo un rifugio. Secondo il forum H2O questo non è importante perché i tempi di ritorno di questi fenomeni estremi sono molto lunghi, come per le piene dei fiumi, possono avere una ciclicità plurisecolare. Insomma, detta in altri termini, prima o poi dove c'è una frana, dove c'è una valanga, magari possono passare decenni, ma si ripropone e quindi forse costruire lì è un azzardo. E vabbè, sono le polemiche, il senno del poi, quelle che fanno urlare alcuni parenti, come l'urlo soprattutto di Alessio Feniello, papà di Stefano, uno dei dispersi, ce li hanno uccisi. Questo è il titolo di molti giornali, Il giornale pagina 4, l'ira dei parenti in lacrime, morti ce li hanno uccisi. E guardate anche sulla stampa, i nostri morti sono stati uccisi. Alessio Feniello è il parente che più urla questa disperazione. In tutto questo Repubblica mette a pagina 11 lo sbobinato della ormai celebre telefonata che c'è stata tra colui che ha lanciato per primo l'allarme, perché avvisato da un cuoco dell'hotel Rigopiano, si chiama Quintino Marcella, che si presenta così infatti alla funzionaria della prefettura: sono Marcella di cognome, Quintino di nome. Inizia così questa telefonata pubblicata da Repubblica, Fabio Tonacci, pagina 11, ed eccola la telefonata con la funzionaria della prefettura che pensa ad uno scherzo, minimizza. Sono Marcella di cognome, Quintino di nome. Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp, l'albergo di Rigopiano è crollato, non c'è più niente, lui è lì con la moglie, bimbi piccoli, intervenite, andate lassù. E la funzionaria subito che rintuzza: questa storia gira da stamattina, i vigili del fuoco hanno fatto le verifiche a Rigopiano, è crollata la stalla di Martinelli. Qui c'è un grosso equivoco, racconta Repubblica, perché effettivamente è crollata la stalla di questo produttore di pecorino di farindola, e quindi la funzionaria scambia il crollo dell'hotel col crollo di un'altra stalla. E inizia a chiedere: come si chiama questo cuoco? Giampiero Pareti, quello della pizzeria, il figlio del Gino. Ah, lo conosco benissimo il figlio del Gino, è da stamattina che gira sta cosa. Il 118 mi conferma che hanno parlato col direttore dell'albergo 2 ore fa. Non è crollato niente, stanno tutti bene. Ma com'è possibile? Dice questo Quintino Marcella. La mamma dell'imbecille è sempre incinta, risponde la funzionaria della prefettura. Il telefonino, si vede che gliel'hanno preso. Cioè, come dire, pensa a uno scherzo questa funzionaria, pensa che qualcuno... E tanto che Quintino Marcella dice: ma guardate che uno serio non permetterebbe mai uno scherzo del genere. E ancora la funzionaria: 2 ore fa le confermo, hanno parlato con l'hotel, non le dico una bugia. E si infastidisce: ma se fosse crollato tutto, pensa che qui rimarremmo fermi. E la telefonata si conclude così. Per carità, ormai era già tutto crollato, non sto dicendo... Certo, potevano evidentemente partire i soccorsi prima, ma il problema è stato e si evidenzia a monte, quando 3-4 giorni prima c'era il rischio slavina e nessuno ha avvisato. Il sindaco di Farindola che dice: non mi è arrivato alcun allarme. E invece dicono: no, è partito l'allarme, e qualcuno quindi non ha controllato banalmente la mail. Vogliamo pensare questo? Vabbè, lasciamo questa storia che ovviamente torna in questi giorni ripetutamente sui quotidiani, e la vedremo con nuovi sviluppi da domani. Intanto si continua ovviamente a scavare, a cercare quelli che presumibilmente ormai sono le vittime, i corpi. E veniamo invece a questioni più legate al nostro portafoglio, ai soldi, perché salto sulla Verità, dove, attenzione, cari fumatori, Claudio Antonelli ci racconta che per favorire il bilancio pubblico, siamo a pagina 9, le sigarette aumenteranno di 10 centesimi. Sai che novità. Dopo la lettera della Commissione europea che chiede una manovra aggiuntiva, secondo la Verità, allo studio c'è qualche misura sulla fiscalità del tabacco, che è un po' come l'accisa sulla benzina, no? Ogni tanto si va a colpire lì. Qualcuno non fumatore dice: giusto, i fumatori vanno puniti perché è un vizio, mentre la benzina, insomma, in fondo è un qualcosa che utilizziamo tutti, fumatori e non fumatori, mentre lì bisogna colpire i fumatori, il vizio, punire. Sta di fatto che, secondo la Verità, c'è allo studio questo aumento di 10 centesimi sulle sigarette. Oh, ci sono 2 o 3 cose che mi hanno colpito e mi hanno fatto anche un pochino arrabbiare, devo dire. Ricordate la vicenda del professore di Padova che si è messo in congedo poi è tornato da settembre, poi è tornato per un solo giorno il 23 dicembre per riprendere un altro congedo. Tutto questo ha fatto saltare intanto la mosca al naso alla preside, che gli ha scritto una lettera pubblica dicendo: caro professore, ma perché è venuto un giorno, facendo saltare la supplente, creando problemi alla classe, creando problemi alla scuola? Ebbene, c'è una puntata bis, perché a pagina 17 di Libero si scopre che quel professore di Benevento, in congedo dall'inizio dell'anno scolastico, che il 23 dicembre, per non perdere il posto, si era ripresentato all'Istituto Tecnico Severi di Padova per un giorno, ora starebbe pensando di fare causa al Ministero dell'Istruzione. Perché? Perché gli hanno assegnato una cattedra così lontana dalla provincia di Benevento dove lui risiede, danneggiando così l'altra sua attività per cui vive, quella di commercialista. Ma come? E questo succede. Il docente ha inviato all'ufficio scolastico veneto un documento in cui è elencato i motivi principali per cui, secondo lui, nei suoi confronti si configurerebbe una palese violazione dei diritti. È stato mandato a Padova nonostante fosse la sua 98esima preferenza in un elenco di 100. E non si sarebbe tenuto conto dei punti in graduatoria per il ricongiungimento familiare, e dunque starebbe pensando di far causa allo Stato. Nella stessa pagina succede una cosa che viene raccontata in un trafiletto, e che, per carità, quando si fa un trasloco si perdono sempre delle cose. Ma sapete che cosa si sono persi in un trasloco, e il sindaco di Civate ha dovuto confermarlo in una interrogazione, rispondendo a una mozione dei consiglieri comunali di minoranza? Si sono persi i faldoni di tutta la vicenda del crollo del ponte sulla statale 36, crollo che ha causato anche un morto, una macchina che è stata schiacciata, ricordate, qui in Lombardia. Persa la documentazione del ponte crollato a Lecco, ad Annone, per la precisione. È andato tutto perso durante un trasloco degli uffici dell'amministrazione provinciale di Como a quella di Lecco. Così, senza i progetti, si potrà fare poco su questo crollo. Per questo motivo l'incontro al Ministero delle Infrastrutture, convocato per fine mese, è stato posticipato di un paio di settimane. Gente che cerca i faldoni da una parte all'altra degli uffici. A confermare la scomparsa di questi faldoni, il sindaco di Civate. Se trovate dei faldoni sul crollo, riportateli o alla provincia di Como o alla provincia di Lecco, fate in modo che non si riperdano. Mamma mia, ragazzi. Ma siamo all'articolo che mi fa storia della giornata. Quello da Mani sul Volante: rasoi appoggiati, cari uomini o care donne che vi state facendo la barba, non credo molte. A Napoli, racconta il giornale, c'è chi abita a teatro e paga pure l'affitto al comune. È una surreale vicenda raccontata da Simone Di Meo al Teatro Mercadante. Ci sono famiglie che vivono con affaccio sul foyer del teatro. Bello, uno vede qualche tappeto, qualche broccato appena si sveglia, e pagano da 30 a 470 euro di affitto per appartamenti con vista a foyer, solo che si rifiutano di dare le chiavi del teatro, cioè vivono dentro il teatro. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Uè, meno male che c'è il Milan, il conduttore, non la squadra. Per carità, a volte lo penso anch'io, caro amico mio, io però lo penso da milanista. Va bene, alle 7:36 minuti siamo qui a ricordare che oggi la Corte Costituzionale, quindi entriamo nella politica, deciderà sull'Italicum, e non ha ancora deciso la Corte Costituzionale, e come racconta il Corriere a pagina 6 è già lite sul verdetto della Consulta. Marco Galluzzo racconta: oggi la Corte Costituzionale decide sulla legge elettorale approvata nel 2015 dalla maggioranza guidata da Renzi. I giudici decideranno se e quali parti dell'Italicum sono in contrasto con la Costituzione o con la propria giurisprudenza. Potranno dunque cassare pezzi di legge. I dubbi riguardano soprattutto ballottaggio e premio di maggioranza, ma potranno anche indicare, come accadde nel giudizio sul Porcellum, delle correzioni che diverrebbero vigenti in modo automatico, ma non risolverebbero il problema dell'armonizzazione col Senato, rimandando almeno in parte il problema al Parlamento. È una questione, come potete capire, abbastanza complicata, come tutto quello che riguarda le leggi elettorali, che sono delle leggi abbastanza complicate per addetti ai lavori. Vi segnalo l'anticipazione di Ugo Magri, che è abbastanza certo nello scrivere a pagina 12 della Stampa che sull'Italicum si abbatterà la scure della Consulta. Questo è il titolo: la scure della Consulta stasera sull'Italicum, si va verso la bocciatura. Questo perché, scrive Ugo Magri sull'Italicum, il relatore Nicolò Zanon ha chiesto alla Corte di dichiararlo due volte incostituzionale, anzitutto perché prevede un ballottaggio alla Camera a cui si può accedere senza alcuna soglia minima, cosicché per assurdo potrebbe accadere che la maggioranza dei deputati venga conquistata da un partito con appena il 25% dei voti. Inoltre l'Italicum consente ai vari leader di farsi eleggere in più collegi e poi di sceglierne uno a proprio piacimento. Nemmeno questo è costituzionalmente lecito, secondo il relatore. Chi si candida in più collegi va eletto dove è raccolto la percentuale più alta e stop. L'opinione di Zanon, solidamente argomentata in 11 capitoli durante il cosiddetto pre-consiglio, peserà moltissimo sulla sentenza finale della Consulta. E dunque la Stampa, in questa retroscena, assicura verrà bocciata, giudicata incostituzionale. Intanto già litigano i partiti, la giornata è sicuramente decisiva, lo dico io, per capire se si andrà a votare presto, come vuole Renzi, se i tempi si allungheranno. Una cosa è certa, come Iena, alias Riccardo Barenghi, sulla Stampa racconta a pagina 5 nel suo graffio: la Consulta non ci dirà l'unica cosa che ci interessa, quando potremo votare e soprattutto per chi. Questo è Iena sulla Stampa. Dunque vedremo oggi questa giornata, ma molti quotidiani oggi apro con la notizia finanziaria e vi invito all'apertura di Finanza e Mercati, nonché al titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, la vicenda Generali Intesa. Il blitz di Generali su Intesa ha comprato il 3%. Che succede? È partita la battaglia sulle Generali, indiscrezioni di stampa uscite nel weekend sulla possibile interesse di Intesa San Paolo per un ingresso nel capitale della compagnia assicurativa hanno spinto la società Generali a opzionare 505 milioni di azioni di Intesa, pari al 3,01% dell'istituto. Quanto basta per impedire alla banca, stante la normativa sulle partecipazioni incrociate, di salire oltre il 3% di Trieste, pena il congelamento dei diritti di voto. Per ora i rumors hanno scaldato la borsa, Generali ha chiuso in rialzo, diversamente Intesa San Paolo è calata del 2,91%, e l'operazione di Generali, se tradotta nell'acquisto definitivo, può valere fino a 1,2 miliardi di euro. Ovviamente sul Sole 24 Ore c'è anche il racconto con Alessandro Graziani, oltre alla cronaca di che cosa c'è dietro questo possibile unione, cosa c'è dietro questa mossa antiscalata di Generali in un nuovo riassetto finanziario tra banche, assicurazioni, in questi due poli importanti. A proposito di banche, vorrei saltare su Libero a pagina 2, perché Libero ha questa notizia che riguarda la Popolare di Vicenza. Alessandro Gonzato ne scrive: la procura apre l'inchiesta sui bidonisti di Popolare Vicenza. Questo si legge nel titolo. I bidonisti sarebbero e sono, per Libero, quelli che hanno preso dei grandi crediti dalla banca, sono ora grandi debitori che non hanno ridato indietro le somme percepite. Tra loro c'è Zamparini, industriale e forse conosciuto anche più come patron del Palermo Calcio da anni, racconta Libero, i grandi debitori della Banca Popolare di Vicenza finiranno sotto inchiesta. Questione di giorni, al più tardi di poche settimane, la posizione di ciascuno di 30 soggetti tra società e privati che non hanno restituito ingenti somme prestateli nel corso degli anni dall'istituto dell'ex presidente Zonin saranno esaminate dalla Guardia di Finanza e dalla Procura. Le autorità sono già in possesso di ogni singola documentazione con un ammanco che risulta di 600 milioni di euro. Che fine ha fatto questo fiume di denaro? Maurizio Zampanini è l'imprenditore e anche presidente mangia allenatore del Palermo, che però si difende. La sua Montemare Grado ha ricevuto da Zonin poco meno di 58 milioni, ma lui non passa per bidonista, anzi al contrattacco dice che in tutta questa storia se c'è una parte lesa, quella è lui, e racconta il perché. Sta di fatto che Zampanini si difende, il truffato sono io, la procura vuole vederci chiaro su questa vicenda delle banche. Come sempre vede tutto chiarissimo il nostro Mauro Meazza, che ci può dare le anticipazioni. Allora, ma Mauro, chi è il colpevole, chi ha ragione, chi ha torto, giudizio e condanna, se c'è da dare una condanna. Ma guarda, buongiorno Alessandro, buongiorno. Oggi mi sembra prematuro, aspetterei la decisione della Consulta che eccolo già ricordavi qua. Prima, non vorrei precipitare i tempi, eccetera, eccetera. Invece si può anticipare anche la pensione anche col part time, non so se hai potuto notare, ieri poi non ti ho visto tutto pensioni, ti aspettavo. No, tutto pensioni, ma c'era Boeri e io ho lasciato il campo. Hai lasciato il campo a Boeri, va bene, il Presidente te ne sarà grato. Ne riferiamo oggi proprio nelle primissime pagine, tra le altre cose appunto l'APE, hai presente l'anticipo sì. pensionistico, ecco, può convivere con il part time, ci si può mettere in part time e prendere l'APE. E poi ti scrive, no, a te non scriverà l'INPS, sei troppo giovane, però a tutti gli interessati all'APE arriverà una lettera oppure anche un'email. Ci sono in totale 285.000 avvisi pronti a partire, tra buste arancioni e email. Quindi controllate la casella postale elettronica o fisica, come riferiamo appunto sul Sole 24 Ore, pagina 3. Oh, poi ti devo segnalare, va bene, a tutto pensione non sei venuto, però Telefisco ci vieni, sì. Sì, come due... non è che posso dare buca due volte. No, perché ti abbiamo invitato, naturalmente devi pagare il biglietto, no, scherzo. Come te ricordo, domenica 5 febbraio, teatro, torna Platone al Manzoni, tornano i Chapter 11, tornano a pagare il biglietto per esibirsi al teatro Manzoni. Va bene, lo faremo senz'altro, invece a Telefisco ti invitiamo gratis, nel senso che il convegno è gratuito, ti puoi anche già preiscrivere nella sede che preferisci. Lì parleremo probabilmente, anzi sicuramente, anche dei derivati. Qui Radio Fisco, attenzione, perché per i derivati, con le nuove regole sul bilancio, bisogna anche avere delle carte apposite. Ne riferiamo in norme e tributi, ora non voglio affaticarti con questi temi, però leggi su norme e tributi, leggilo magari anche a Mattia questa sera, questo passaggio sui derivati. Giusto, so che lui è molto interessato. Giusto, che mi mostra dei primi effetti di insonnia. No, tu prova a leggergli questo contributo sui derivati, che ripeto è molto interessante. Intanto rallenta il piano di tagli delle partecipate, sai che ci sono come noto 8.000 partecipate, sai che da anni diciamo che devono scendere almeno a 1.000, e però prendiamo tempo, lo spiega bene perché Gianni Trovati, diciamo che non si può essere così precipitosi, vanno riviste alcune cose, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale sulla riforma Madia, insomma, ci saranno queste 7.000 che non si fanno trovare, insomma, come diceva quel personaggio, adelante con buissio, piano, avanti ma piano, con giudizio. Va bene, molte altre cose, ma soprattutto alcune cose da meditazione. Il contributo su che è successo alla nostra occupazione e alla nostra disoccupazione, ne riferiscono Giorgio Pogliotti e Paolo Bricco, sappi solo che i disoccupati sono passati da 1,6 milioni a 3 milioni in 8 anni, tra il 2008 e il 2016, leggi e medita. E poi il contributo anche dell'ex ministro Giulio Tremonti sul bail-in, lo trovi in commenti e inchieste quest'oggi, tutti articoli direi da meditazione. E infine, quanto costano le zucchine, quanto costano i pomodori? Le classiche domande che andrebbero fatte ai politici. Sì. Allora, no, però possiamo aiutarti, c'è una grafica in Imprese e Territori che tu leggerai scrupolosamente, perché purtroppo per il maltempo stanno rincarando fortemente. E allora puoi mostrare questa grafica anche a beneficio degli ascoltatori. Nella prima pagina di Impresa e Territori vedi che i più cari, i rincari maggiori sono proprio su pomodori e zucchine, ma anche le altre verdure non scherzano. Infine è martedì, il condominio, che te lo dico a fa. Questa volta titolo più importante sull'alloggio della portineria. E caro Alessandro, a domani ricordati 2 febbraio Telefisco e traffico! Alessandro Milan, il sciupapagine dell'informazione. Eccole qua, come le sciupo. Allora, Donald Trump che comincia con le prime mosse che sono abbastanza scoppiettanti. Intanto la cancellazione del Trattato del Pacifico al grido di proteggiamoci da chi ci ruba il lavoro. Questo è il titolo di pagina 12 del Corriere della Sera, il primo scossone, così lo definisce Giuseppe Sarcina. Un primo scossone che investe la mappa geoeconomica del mondo. Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per l'immediato ritiro del TPP, il Trans-Pacific Partnership, un trattato commerciale che era voluto fortemente da Obama, formato da 12 stati, Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam e Stati Uniti. Dobbiamo proteggere i confini dal saccheggio degli altri paesi che fanno i nostri prodotti, rubando le nostre aziende, distruggendo posti di lavoro. Ha fatto anche altro, per esempio ha tolto finanziamenti alle ONG che sono pro-aborto. Singolare, ma mica tanto, far notare come fa il Corriere della Sera, a fianco a questo articolo sul commercio mondiale, che i gadget pro Donald Trump sono quasi tutti fatti in Cina, Vietnam, Bangladesh. La famosa China di Trump. Non ce l'abbiamo al volo. China, China, China. No, vabbè. Allora, Trump però è un uomo forte. È l'uomo forte evocato da Beppe Grillo, anche se poi Beppe Grillo ha smentito. Ebbene, è interessante segnalarvi il sondaggio di Ilvo Diamanti oggi su Repubblica a pagina 6 e 7, e cioè gli italiani, o meglio 8 italiani su 10, scrive Ilvo Diamanti, vogliono l'uomo forte. I leader soli al comando piacciono a 8 italiani su 10. Leggete l'articolo di pagina 6 e 7. Perché è interessante, anche noi italiani puntiamo a quello. Oh, io vorrei rimanere però in America, perché oggi La Verità ha un racconto di Gigi Moncalvo molto dettagliato su quello che è successo e quello che succederà a Lapo Elkan. Ci siamo dimenticati la vicenda di New York, il finto sequestro, la notte con la trans, droga, alcol probabilmente. Gli ingredienti per l'ennesimo scandalo gossiparo ci sono tutti. E allora oggi Gigi Moncalvo sulla Verità, pagina 10 e 11, tra l'altro alla vigilia della comparizione di Lapo Elkan, che dovrà domani presentarsi al Tribunale di New York, racconta quello che è successo. Nella folle notte di Lapo a New York è stato Marchionne a decidere tutto. La Verità, pagina 10. Domani il rampollo sarà processo per il finto sequestro. E tra l'altro racconta Gigi Moncalvo, saranno difesi da avvocati americani coordinati da Michele Briamonte dello studio Grande Stevens qui in Italia. Quello che vogliono dimostrare gli avvocati di Lapo Elkan era che era incapace di intendere volere perché sotto effetto di droga e alcol, e quello di aver avuto la percezione creata dalla padrona di casa e dal pusher portoricano di essere tenuto in ostaggio in quello squallido appartamento. Però è una testimonianza difficile da comprovare, perché il trans dice che lui, Lapo Elkan, è entrato e uscito più volte da quella casa per far telefonate, e la polizia, controllando i tabulati della zona di Keep Bay, ha accertato che era vero. Da qui l'incriminazione per falsa testimonianza. Lapo ha un altro grave problema processuale, secondo Gigi Moncalvo. Essendo nato a New York, aveva il doppio passaporto, ma alcuni anni fa ha rinunciato alla cittadinanza americana, secondo alcuni perché voleva sottrarsi alla rigorosa giurisdizione fiscale degli Stati Uniti. Diciamo, questo è quello che è la strategia processuale. Cosa è successo quella notte? Vabbè, non nei dettagli più scabrosi, ma racconta la verità, è che è stato Marchionne a decidere, prendendo in mano la situazione e dando gli ordini agli avvocati di non pagare il riscatto, o meglio di non pagare e di non dare i soldi alla Poelcar, ma andare invece alla polizia. Il ragionamento di Marchionne è stato semplice: se oggi accettiamo di pagare 10.000 dollari, domani potrebbero chiedercene 10 milioni, magari ricattandoci con qualche video compromettente sull'Apo. E Marchionne lo avrebbe fatto, e qui c'è il retroscena che riguarda le aziende, anche per allontanare l'Apo Elkan dal consiglio di amministrazione della sua Ferrari. Comunque sono due pagine molto gustose e molto dettagliate anche di intrighi tra persone potenti dell'economia italiana e mondiale. Sulla verità, pagina 10 e 11. A proposito di uomini forti, sapete quante cariche ha il leader cinese Xi Jinping? 12 cariche. L'ultima che gli hanno dato è presidente della Commissione per lo sviluppo integrato militare e civile. Ma ha 12 titoli. È leader del gruppo guida approfondimento comprensivo delle riforme, leader del gruppo guida per gli affari economici e finanziari, leader del gruppo centrale di guida di internet, controlla tutto anche in Cina, insomma tutto questo, ha 12 cariche istituzionali il leader cinese. Vabbè, ci sono tantissimi articoli che vorrei leggere, ma oggi non c'è tempo, devo correre, allora corro alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo sul Corriere della Sera, dove c'è una pagina intera dedicata al frisbee, 60 anni di un oggetto di culto. Ma chi se ne frega?